www.radio3pod.rai.it. Eh sì, buongiorno, ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio, cioè pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Eh sì. Succede, per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il girotondo della nascita e della morte continua senza soste, Kappa e Drago entrano nel tunnel dell'assuefazione. Le sigarette che il pollo ci ha venduto di contrabbando ti piacciono? Ma non, un gusto strano. Certo che fidarsi della Sacra Cresta Unita. Vabbè, proprio... ma non eri tu che dicevi non importa da dove arriva la sostanza, l'importante è che sia buona. Appunto, in questo caso la sostanza non è buona. Sì, quindi... non sarà buona, però mi viene sempre voglia di accenderne un'altra. Vabbè, ma l'avevi visto quel film? No, ma ti stupisce perché mettono quelle sostanze che creano dipendenza nel fumatore. Quale film? Quel film... Le nozioni di primo di classe. Comando, un dubbio, una domanda, una piccola amnesia. Vi mette nei guai? Arriva primo di classe con le sue nozioni precise e puntuali. Dunque, il film è Insider di Michael Mann, anno 1999, con Al Pacino e Russell Crowe. Film di denuncia contro multinazionali di tabacco colpevole di inserire in sigarette additivi che inducono assuefazione di nicotina. Bella scoperta, hanno detto tutti dopo aver visto film. Chi aveva ancora dubbi su pericolosità psicofisica di sigarette invece continua ad averli perché pensa che questo è solo un film e che in realtà è tutto diversa e che fumo, catrame e nicotina fanno molto bene a salute. Quindi, capo, siamo drogati? A parte che si sapeva. Dappertutto, se chiedi in giro, ma Kappa e Drago si drogano, tutti a dire, beh, certo. Al karaoke vi facevano sempre cantare Fegato Spappolato e Siamo solo noi di Vasco. Al karaoke? Sì. E tu vai al karaoke? Beh sì, dopo la femminista ho avuto questa ragioniera di Piacenza che mi portava sempre in un karaoke bellissimo vicino alla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di cresta. Siamo solo noi con la paroxetina regolare, non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però poi lo stesso è. Siamo solo noi, generazioni sconvolti, che non ha più santi nero. La fabbrica di polli. Baby gang. Cosa state dicendo, baby gang? No, forse ho capito che Tarek ha appena incontrato una baby gang, no? Che prima l'ha rapinato. Adesso lui sta insieme a quelli lì, che sono i suoi amici. Ma Tarek, hai 28 anni, quasi 29, ancora ti fai circuire dalle baby gang. Ma dai, sono cose che succedono a 13 anni. Baby gang. Sì, ma Tarek, le baby girl lo vedono subito, e questo qui è un ciola. E si può rapinare, e poi se lo tirano dentro insieme a loro, no? Scusa, ma da quando è che ci sono le baby gang in fabbrica, non ho capito? Ma ultimamente c'era un casino, Sì. No, questi sono i cocoriti, sono baby gang di cocoriti, no? Ah. Adesso questi qui sono di più, Adesso tutti i polli, quasi tutti, arrivano da là, perché costano di meno. Da là? Sì. E da là, da lontano, no? Vabbè. Perché li pagano poco e questi producono di più. Allora sono sempre di più questi cocoriti. I piccolini, siccome sanno che sono un po' inferiori. Ma... sono cocoriti, no? Vabbè. Vanno in giro, vogliono fare un po' i ganzi, no? E vanno in gruppo, vanno dai quelli piccoli, come Tarek, e poi Tarek invece è più vecchio. E li spaventano e li portano via il mangime, la proxetina e poi i cellulari. Certo, il problema è quello dei cellulari, no? Perché questi qui poi sono gli unici piccoli che sono fatti la loro discoteca. Quindi si ritrovano lì con i cellulari. Esatto, se voi andate dietro il capannone di là e vedete che c'è un buco, no? Con della paglia, e quella lì è il Matisse. E quella è la discoteca dei cocoriti, E Tarek si fa circuire da questi Tarek qui. Tarek è dentro mezzo a loro. E poi Tarek, come ogni tanto, c'è in tasca qualche lira in più, no? E perché lui è il mio protetto. E questi qui dicono, Tarek, offri. E questi lo fregano, no? Amici! La fabbrica di polli. Il tempo della maturità si allontana per tutti, K. Si passa dall'essere ragazzi all'essere vecchi. Tarek, a 29 anni, sta facendo cose che avrebbe dovuto smettere di fare a 15. E tu invece che ne hai 40, a quale categoria appartieni? A quella dei ragazzi o a quella dei vecchi? A quella dei ragazzi per altri 20 anni e poi scoprirò un giorno, se ci arriverò, di avere 60 anni e quindi passerò direttamente a essere un lamentoso sputasentenze insoddisfatto di tutto e tutti. Ah, perché adesso invece cosa sei? Lamentoso sei lamentoso, sputasentenze sei sputasentenze, insoddisfatto di tutto e di tutti. Lo sei in pieno, quindi... Forse è vero, sai. Allora vuol dire che ho 60 anni? No, vuol dire che sei vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancor più vecchio, che sei ancor più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Tempo se ne va. Finirà, ma adesso è ancora più presto, adesso è ancora più presto, adesso è ancora più presto, il giorno presto finirà, ma adesso è ancora più presto finirà. Buona sfera, sono il confessionale elettrico della cappella di San Gallo. Fedele, confessa i tuoi peccati e ottieni una assoluzione certificata dalla Chiesa di Roma. Sfera! Baby Gang! Sfera? Baby Gang! Baby Gang, che cosa vuoi dire, fedele? Che fai parte di una band di delinquentelli armati di coltello che va in giro a terrorizzare i vecchi bambini? Sfera! Male! Molto male, figliolo! E quante volte hai fatto la baby gang? Che volte, baby gang? Bene, vuol dire che non hai ancora perseverato nel peccato. Perché, come ben sai, peccare è male, ma perseverare è diabolico. Diabolico! Eva cosa? Diabolico! Eva spera! Eva fa parte del Vecchio Testamento e la mia religione attuale non contempla quella parte della Bibbia. Spera! Sfera! Sfera! Sfera! Figliolo, tu parli la mia lingua! Sfera! Sfera! E allora ti do la soluzione. Fa pure tutto il casino che vuoi con la tua baby gang. Sfera! Prendi a calci i vecchietti sui tram. Sfera! Sfigura le ragazzine se si rifiutano di darti le loro mutandine usate. Sfigurale, sfera! Minaccia col coltello i gestori della lavanderia coreana. Sfera! Bravo figliolo, sfera! Sfera! Tutti insieme adesso! Sfera! Sfera! Sfera! Sfera! Che cosa succederà adesso? Tarek e il confessionale elettrico diventeranno amici per la pelle? Sfera! Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo barcamenante allestimento de... La fabbrica di polli produce...